Questo è lo spazio dedicato al teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 14, con interviste registrate su spettacoli e festival in corso. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Eccoci in collegamento telefonico con Francesca Tricarico, che cura la regia dello spettacolo Didone, che andrà in scena martedì 27 marzo al Teatro della Casa Circondariale Re Bibbia Nuovo Complesso a Roma, in occasione della Giornata Nazionale del Teatro in Carcere, per la compagnia Le Donne del Muro Alto. Intanto, Francesca, ben ritrovata. Ciao a tutti, grazie di avermi invitato. Ci racconti un po' di questo nuovo progetto? Sì, il 27, come dicevi tu, saremo in scena al Teatro Nuovo Complesso con le detenute attrici di Re Bibbia Femminile. Quindi per noi è un grande evento perché ci sposteremo dal teatro del femminile al maschile. Abbiamo deciso di portare in scena il mito di Didone, rivisto e rivisitato dalle nostre ragazze, dove abbiamo cercato quello di tutto ciò che ci apparteneva di questa storia. Vi aspettiamo numerosi e saremo lì. È il quinto anno che siamo a Re Bibbia Femminile nell'Alta Sicurezza con la compagnia Le Donne del Muro Alto, ormai sono diventate delle attrici professioniste e quest'anno abbiamo deciso di lavorare sul tema del trasferimento, sul tema della maternità, attraverso il racconto di questa storia importante, appunto quella del mito di Didone. Ecco, ci racconti un po' com'era partito 5 anni fa questo progetto? Sì, è partito 5 anni fa in una sezione chiusissima, all'epoca nell'alta sicurezza non c'era mai stato il teatro e non c'erano altre attività se non la scuola elementare e media, credo. Quindi è stata un'avventura molto complessa, fatta di una grande diffidenza iniziale, soprattutto da parte loro, perché pensavano fossimo lì soltanto per un breve passaggio, per accostare il nostro nome al carcere e avere risonanza. Anche noi eravamo un po' diffidenti e invece poi è nato un rapporto molto, molto vero e molto profondo che ci ha permesso di lavorare in modo così proficuo e così intenso. Ormai sono ben 5 anni che siamo lì. Francesca, quante donne sono passate per il laboratorio e quante sono attualmente a seguirvi? Allora, adesso abbiamo due compagnie, le Donne del Muro Alto, che è la compagnia dell'Alta Sicurezza, e la compagnia Più Voce nella sezione di Media Sicurezza. Abbiamo una ventina di detenute attrici quest'anno fra le due compagnie. E nel corso degli anni abbiamo avuto circa una ventina di ragazze ogni anno all'incirca. Quindi per 5 anni sono un bel numero. Gli spettatori sono stati numerosissimi, siamo molto felici di come la città risponda a questo tipo di eventi. E la cosa bella è che il pubblico del teatro in carcere è un pubblico molto vario. Questa secondo me è una grande ricchezza per il teatro, la possibilità di avere spettatori che vengono da contesti completamente diversi l'uno dagli altri, così come le attrici che sono in scena. Senti, per la costruzione di questo Didone, com'è stata l'interazione, con le ragazze? Quanto hanno influenzato proprio nella costruzione del testo? L'influenza è stata totale perché io ho portato lì questa storia, come tutti gli anni, io porto lì una storia, un'idea, a volte le portano loro, a volte le porto io e poi cerchiamo di capire perché potrebbe essere interessante raccontarla in quella storia, che cosa c'è che ci appartiene. Una delle necessità più grandi di questa compagnia era raccontare la maternità mancata. Perché spesso viene sottovalutata questa cosa, che una detenuta, ad esempio, entra in carcere a 30 anni, ne esce a 40 e quindi poi la possibilità di avere figli è molto minore. In particolare una nostra attrice soffre proprio per questo, quindi abbiamo ritrovato, ecco, la possibilità attraverso il mito di Didone, cioè una parte bellissima in cui Didone maledice Enea dicendo se almeno avessi avuto un figlio da te, e quindi è stata l'opportunità, ad esempio, di poter raccontare questo tema. Così come la possibilità di poter raccontare il tema della scelta. Enea deve scegliere se andare via e fondare Roma oppure e rimanere lì con Didone a Cartagine. Quindi abbiamo lavorato sul tema della scelta, sul tema che cosa vuol dire essere una regina. Didone è una regina, ma che cosa vuol dire avere il potere, avere il comando? Quindi sono tanti temi che abbiamo deciso di affrontare e che sentivamo il bisogno di raccontare. Ognuno ha cercato di capire qual era il proprio bisogno e poi di metterlo al servizio di se stessa e della storia. Senti, dopo il 27 marzo questa rappresentazione, che futuro avrà? Allora, dopo il 27 marzo avremo un altro appuntamento a maggio con un altro spettacolo con le detenute attrici di Media Sicurezza. E a giugno si conclude l'Officina di Teatro Sociale, noi siamo un'officina di teatro sociale per il 2017 e il 2018. Dopodiché sicuramente non vogliamo fermarsi perché in questi 5 anni di lavoro abbiamo visto nascere e cambiare tante cose. Speriamo a settembre di avere una nuova opportunità per poter continuare questa avventura. Sicuramente noi ce la metteremo tutta. Allora, ci lasci tutti i riferimenti internet per seguirvi? Assolutamente sì, lo spettacolo c'è il 27 marzo, ma per poter assistere è necessario prenotarsi entro e non oltre il 18 marzo. C'è un indirizzo mail info@ledonnedelmuroalto.it dove potersi prenotare e la nostra pagina Facebook, Le Donne del Muro Alto, dove potete trovare tutte le informazioni relative a questo progetto. Vi aspettiamo numerosi perché abbiamo voglia di raccontarvi tante cose e quindi speriamo sarete tanti come gli altri anni ad ascoltarle. Allora, un abbraccio e un saluto. A presto, Francesca, e in bocca al lupo. Revi, un abbraccio anche a voi e grazie. Siamo in compagnia di Attilio Bolzoni e Marco Gambino, l'autore e l'attore, ma anche se Attilio sarà anche in scena, dello spettacolo Parole d'Onore, martedì 27 e mercoledì 28 marzo a Roma, al Teatro di Villa Torlonia. Benvenuti e ben ritrovati. Grazie, grazie. Allora, intanto per chi non lo conoscesse, lo descriviamo questo lavoro? Nasce nel 2009, dopo che io leggo il libro di Attilio, me ne innamoro e in 24 ore lo finisco. Chiamo Attilio che non conoscevo allora e gli dico: guarda, io ho un'idea, vorrei farne un monologo, vorrei fare un lavoro su questo libro. E dall'altro capo del filo sento una persona che mi dice: no, ma sì, assolutamente anch'io ho la stessa idea. E praticamente da lì lo spettacolo nasce, insieme si va a Edimburgo, poi passa a Londra, poi va a Parigi, poi va a Roma, poi va a Pavia, insomma, a Bruxelles. Credo che questa sia una replica che colma le 500 repliche, insomma, Sì. però è la novità grande. Qual è? È che mi ha costretto Marco di salire sul palcoscenico. E quindi dovrò leggere quello che ho scritto e quindi dovrò verificare, controllare se ho scritto bene alcune cose. Dovrò controllare la mia scrittura. Sì. Senti, Non sa Attilio. leggere la propria scrittura, eh? Asino di natura. Senti, Attilio, facendo un passo indietro, come nasce il libro e come lo hai costruito? Vorrei fare un passo indietro e un passo avanti anche. Il passo indietro, come dici tu, nasce da una trentina di anni di appunti presi nelle case dei mafiosi, nelle borgate, per le strade di Palermo, anche in qualche processo, però scartando tutta la vicenda giudiziaria della mafia, entrando un po' nel loro mondo, che è un mondo spaventoso. Quindi sentendoli parlare di Dio, di vita, di morte, di famiglia, di denaro, di affetti, di sesso, di di religione, loro parlano tanto di religione, e quindi tirando fuori, diciamo, il tratto antropologico di questo mondo, no? Sì. E il passo indietro è che è veramente un passo indietro, nel senso che questa è una mafia che è in via di estinzione, secondo me, questo tipo di mafia. E il passo avanti è che la mafia nuova, la mafia nuova, è una mafia antica ma che non parla in quel modo e non si veste in quel modo. La loro testa è rimasta sempre quella. Quindi è una testa sempre, una testa maledetta, di pensieri maledetti. Ma il loro abito, la loro pelle e il loro presentarsi in società è profondamente diverso. Si mischiano molto meglio, sono molto più politicamente corretti. Sì. Di nuovo Marco. Marco, come hai pensato la messa in scena? Allora, ovviamente è uno spettacolo che va avanti dal 2009 è soggetto a tante evoluzioni, quindi il primo momento è stato messo in mano a... Io e Attilio, devo dire che dal primo momento tutti e due avevamo in mente la messa in scena di adesso, cioè uno spettacolo molto duro, tagliente, asciutto. Ed essenziale, però per arrivare a questa essenzialità, come sempre spesso succede anche nella vita, devi attraversare fasi un po' più condite, un po' più decorate, tra virgolette. Però Manuela Ruggero ci ha accompagnato e ci accompagna fino ad ora, ed insieme a lei anche altre persone che magari adesso sono. Non sono mai nell'ombra, però diciamo che sono sempre presenti, ma un po' meno. Gabriel Zanni che ha fatto le proiezioni, Giorgio Palmera che fece allora le luci, hanno contribuito a far sì che questo prodotto assumesse la veste che ha adesso, quindi essenzialità, incisività e asciuttezza. Diciamo, ecco, così lo però, insomma, come ho detto prima, abbiamo avuto bisogno di un po' di tempo per arrivare a questo. E poi ovviamente le lingue diverse in cui l'ho fatto in inglese, l'ho fatto in francese e in italiano, hanno sempre costituito uno sforzo diverso e un impegno diverso. Ecco. Sì. Di nuovo Attilio. Attilio, nella tua lunga esperienza giornalistica, dedicata poi in particolare al fenomeno mafioso, quali sono, secondo il tuo modo di vedere, i modi per, superare la mafia? Ma ce n'è uno solo, la cultura, la consapevolezza e la conoscenza, bisogna metterle insieme. Spesso si dice, ci sono tanti luoghi comuni, dice la repressione non basta, ci vuole l'esercito di maestri. Sono luoghi comuni in questo caso, come dire, che hanno un loro fondamento, la cultura e la consapevolezza. E in questo momento più di cultura, consapevolezza e sapere significa... tutti sono contro la mafia oggi. Tutti sono contro la mafia, nessuno è più a favore della mafia, no? Non è più come 20 anni fa, 30 anni fa. La mafia non esiste, si diceva una volta, adesso i mafiosi gridano la mafia fa schifo, ma lo gridano anche i ragazzi durante i cortei. Quindi la mafia si è ben nascosta, quindi consapevolezza di sapere che cos'è la mafia. È un'arma spuntata, molto spuntata. Contro la mafia, che aiuta la mafia è la retorica, perché la retorica nasconde i fatti e li sotterra per sempre. Quindi eliminiamo la retorica dalla cultura antimafia. Bene, bene. E allora ricordiamo l'appuntamento con Parole d'Onore di Attilio Bolzoni, adattamento teatrale di Attilio Bolzoni e Marco Gambino, che saranno entrambi in scena per la regia di Manuela Ruggero. Martedì 27 e mercoledì 28 marzo al Teatro di Villa Torlonia a Roma. Io vi ringrazio, un abbraccio e ci si vede a teatro. Grazie a te, ciao, A ciao, ciao, ciao. presto.

essendo autoprodotto non siamo riusciti a fare di più, ma il vincitore quest'anno riceverà 500 euro di premio in denaro per il Do It Festival, mentre per il concorso dell'Artigogolo anche i drammaturghi vincitori avranno anche loro un premio in denaro, oltre alle targhe delle menzioni speciali. E poi il nostro obiettivo è quello di farli appunto circuitare in questa rete di piccoli teatri di cui ti parlavo, di cui fanno parte anche il Teatro Studio 1 di Roma, il Teatro Trastevere, il Teatro dei Limoni di Foggia, il Tram di Napoli e l'Arma Teatro di Roma naturalmente, e il Teatro Il Moscerino di Pinerolo in provincia di Torino. Naturalmente speriamo che questa rete possa crescere e far circuitare veramente la drammaturgia contemporanea come tutti noi ci aspettiamo e speriamo. Benissimo, allora ripetiamo l'appuntamento con il Do It Festival all'Arma Teatro a Roma dal 15 marzo al 15 aprile. Un saluto e un ringraziamento ad Angela Telesca, che condivide la direzione artistica del festival. Un in bocca al lupo. Crepi, io aspetto te, Federico, e aspetto tutti gli ascoltatori. Benissimo. Allora, a presto. Ancora. A presto, un ciao. Abbraccio. Siamo in collegamento telefonico con Esther di Scoop. Intanto ben ritrovata e benvenuta. Grazie, grazie. Ci racconti di questa iniziativa, Rassegniamoci? Allora, sì, da dove cominciare? In realtà era un po' che ci balenava nelle teste appunto costruire una rassegna che avesse a che fare con il teatro, visto che Scoop ospita no, da 5 anni tantissime attività culturali, però il teatro era una di quelle attività che facevamo fatica. Ospitiamo tantissimi concerti, proiezioni di film e tant'altro. E Scoop è sempre stato un posto invece attraversato da diverse compagnie romane le ore, cioè utilizzano le sale per farci le prove dei loro spettacoli. Così in questi anni chi un po' gestisce Scoop ha conosciuto tantissimi attori e tantissime persone che ruotano intorno appunto alla messa in scena di uno spettacolo teatrale. E così ci siamo detti: ok, noi ci siamo, lo spazio ce l'abbiamo, voi ci siete, e in realtà Scoop ha bisogno di un palco vero e proprio dove far esibire le compagnie, perché in realtà abbiamo un piccolo palco costruito in maniera naturalmente amatoriale. E allora ci siamo detti: ok, partiamo, mettiamo insieme le nostre intelligenze e i nostri saperi e costruiamo una rassegna. Okay. Fatto. Senti, allora raccontiamo anche quella che è l'esperienza Scoop, di cosa si tratta per chi non lo conoscesse. È vero, Scoop, beh, lo dice la parola stessa, è l'acronimo di Sport e Cultura Popolare, è uno spazio in via della Stazione Tuscolana, a San Giovanni, è uno spazio occupato e autogestito ormai da 6 anni, e abbiamo una storia lunga, con voi ci siamo incontrati spesso, insomma magari oggi questa è una chiamata divertente in cui raccontiamo un progetto, le altre volte spesso appunto Scoop su Radio Onda Rossa era... e veniva contattata perché avevamo sgomberi, avevamo bisogno di un aiuto forte e voi ci eravate sempre naturalmente. Quindi sì, Scoop è un progetto vasto, ampio, che ospita all'interno di questi 3 grandi capannoni 2 palestre con tantissime attività, dalla capoeira al yantra yoga, al mantra yoga, insomma, tai chi e tantissime altre discipline, e poi è un luogo di socialità, di costruzione di eventi culturali dal basso, è il luogo dove tantissime associazioni del quartiere si incontrano per fare rete su vertenze comuni che poi seguiamo insieme a tutto il settimo municipio. Insomma, è uno spazio vivo, ricco di tante teste, tante intelligenze, tante persone che hanno voglia di condividere, insomma, le proprie giornate. Esther, tornando al teatro, rassegniamoci, sarà tutti i martedì, anzi è tutti i martedì perché comincia dal 6 marzo fino al 29 maggio, ci parli un po' di quello che succederà? Rassegniamoci sì, tra l'altro, anzi mi aspettavo come mai di martedì, nel senso che sì, è un giorno infrasettimanale, ma ci eravamo un po' stancati di andare a teatro solo il venerdì e il sabato, e quindi abbiamo deciso che Scoop il martedì vivesse di questo. Rassegniamoci è appunto una rassegna che attraverso un bando così molto amatoriale ha chiamato a sé, intorno a sé un po' di compagnie che hanno risposto in tantissime, e tra l'altro abbiamo fatto la nostra prima selezione delle compagnie, mentre le altre che non sono state appunto scelte avranno la possibilità a settembre di esibirsi sul palco che riusciremo a costruire appunto con il ricavato di questi martedì sera. E ci sarà di tutto, dalla clowneria alla danza, alla commedia, teatro contemporaneo, tantissime cose, attori bravissimi, compagnie bravissime, naturalmente tutte romane, e il 3 aprile, così magari è una cosa divertente, invece ci sarà uno spettacolo a sorpresa, quindi gli spettatori non sapranno che cosa vedranno se non alle 8 quando comincerà appunto si aprirà e il pubblico vedrà chi avrà di fronte a sé. Bene. Allora, io come riferimenti vedo che c'è la pagina Facebook proprio dedicata alla rassegna, rassegniamoci, giusto? C'è una pagina Facebook, c'è il sito sì, che è Scoop Teatro, e c'è il sito di Scoop dove si trovano tutti gli aggiornamenti. Volevo solo ricordare appunto che tutti i martedì alle 7 c'è un aperitivo, alle 20 siamo molto puntuali, comincia lo spettacolo. E poi c'è il dopo cena tutti i martedì fino al 29 maggio. Perfetto. Che dire? Io ti ringrazio, Esther. Aspetta, sì. Lo sai che volevo dire invece? Insieme a me, naturalmente, vabbè, io sono un po' la voce, ma insieme a me lavorano tantissime persone a questa rassegna. Da Giancarlo, Martina, Pier e Leonora, insomma, io un grazie particolare lo devo a loro perché le idee sì, sono sempre belle, ma se non c'è un gruppo che poi le realizza, difficilmente ecco, trovano spazio. Allora, un abbraccio, un in bocca al lupo. Grazie, grazie. Ciao, a presto. A presto, ciao. Siamo in compagnia di Glauco Mauri che con Roberto Sturno porta in scena An Up and Down Beckett per quanto riguarda il teatro Palladium il prossimo mercoledì 28 e giovedì 29 marzo. Glauco, benvenuto. Grazie. Qua. Allora, ci racconti un po' di questo progetto multimediale? È nato, noi siamo, Becchetto è un compagno della nostra compagnia da tanti tanti anni, abbiamo fatto tante cose di Becchetto e in questo momento alterniamo le diporere di Pacolomo a finale di partita di Becchetto, tu pensa, Sofocle Becchetto, e ci è venuto in mente di fare uno spettacolo per mostrare Becchetto anche nelle sue situazioni più intime, più particolari, e allora è un dice multimediale, questa parola che a me fa schifo, ma è uno spettacolo multimediale in cui si parla non solo, interpretiamo Atto senza parole, è l'ultimo nostro del Crepe, due piccoli capolavori, che tra l'altro ho la gioia di averli rappresentati per la prima volta in Italia, io addirittura, l'unissimo nel 62, ma diciamo anche una specie di una commedia scritta per la radio che non è mai stata fatta in Italia perché non è per il teatro. È una storia curiosissima, interpretata da Estro Viciani, Roberto e io, e poi facciamo vedere certe fotografie oppure passi inediti di Brecht, io leggo l'incipit di Molloy, insomma facciamo vedere un Beckett che generalmente non si vede, perché si vedono soltanto i testi, le commedie di Beckett. Sì, così come Beckett è un autore che a mio avviso, come tutti i grandi autori, offrono la possibilità di essere interpretati anche in modo diverso, pur rimanendo fedeli agli autori, noi siamo specializzati nel amare Beckett, perché io ad esempio, e con me anche Roberto, troviamo che Beckett non è soltanto un grande scrittore del teatro dell'assurdo, poi con l'assurdo per me ne assumo tutte le responsabilità di interprete, per carità posso essere contraddetto, non condiviso, ma Beckett è anche un grande cantore della difficoltà del vivere dell'uomo. Mm-hmm. C'è anche grande tenerezza dentro Beckett, e queste le cose che sta venendo fuori anche nella nostra ultima rappresentazione di finale di partita. Dunque, questa è una tanda Beckett, è proprio una tanda Beckett. Vediamo un po' come Beckett è un po' anche nel suo intimo. Ecco, oltre al fatto di essere poco conosciute e poco rappresentati, questi scritti che avete scelto, ecco, quali altri criteri di scelta avete utilizzato? No, abbiamo dovuto stare, anche perché lo spettacolo deve essere contenuto nel giro al massimo di 1/3, sì, niente, abbiamo più che altro, avevamo tante altre cose, perché alcune cose non possiamo metterle per i diritti d'autore. Ah, certo. Perché ad esempio facciamo questa trasmissione all'oscuro di tutti. questo testo che facciamo, Parole e Musica, non è un testo scritto per il teatro, è un testo scritto per la radio. E non ci sono, nessuno in Italia l'ha mai fatto, quindi non sappiamo nemmeno come diritti, certo perché arriva i diritti a Beckett, ma non è. Potrebbero dire no, questo teatro non lo fate, perché è uno scrittore solo per la radio. Mm-hmm. Però voglio dire, noi abbiamo trovato un modo molto divertente, perché è una situazione curiosissima. C'è un padrone che si chiama Croc, che ha due cervi, uno si chiama Musica e l'altro si chiama Parola, e questo ogni tanto entra dentro questa stanza dove c'è un pianoforte con la musica e un microfono con quello della parola, e dice: oggi parliamo di vecchiaia. La parola deve inventarsi un monologo sulla vecchiaia e la musica deve inventarsi una musica sulla vecchiaia, e lui cambia di volta in volta argomento. E la cosa è che la musica e la parola non vanno d'accordo, quindi succede un tale, si può dire, casino molto divertente e che l'abbiamo portato in teatro. Poi ci sono una cosa molto interessante che ho dovuto spiegare molto tempo. Abbiamo dette da me e da Roberto circa 20-25 frasi di Beckett, tra le più famose e anche tra quelle meno conosciute, che dimostrano quale sensibilità nei confronti della vita abbia avuto Beckett, e sono tutte cose di Beckett, dette una dietro l'altra fa una impressione, anche quella è una forma così che il teatro generalmente non si fa. Sì, ecco, sì. E tutto questo tra l'altro siamo stati fortunati, perché a Firenze, alla Pergola, l'abbiamo fatto addirittura dentro il palcoscenico, essendo così grande, e abbiamo in fondo c'era una scalinata con delle poltrone fissate, e in mezzo alle corde abbiamo recitato questi brani con un fascino, con un odore particolare, l'odore poetico del palcoscenico. Sì. E alla fine recitavamo con le spalle alla platea, al sipario. Si apriva il sipario e i ringraziamenti venivano di fronte alla platea della Pergola di Firenze, illuminatissima, quindi con un grande impatto anche emotivo da parte del pubblico, che non si aspettava per cui depudere. Senti Glauco, rispetto alle musiche originali eseguite dal vivo, cosa ci dici? Ma cioè, sono musiche di Bezzanne, di un noto mezzo originale. Sono alcune originali, quelle di Parole e Musiche, ci sono anche delle indicazioni di quelle che sono state fatte. Ma noi abbiamo scritto anche, noi, il nostro musicista, ha scritto anche delle musiche sue particolari, che poi è quello che ha fatto le musiche anche per Finale di Partita. Sì, sì. Con la regia e la collaborazione, più che regia, è stata una collaborazione tra noi e Andrea Baracco, che ha lavorato con noi, ha lavorato con l'editore. È stato così una cosa molto divertente, nel senso più nobile del termine, voglio dire, perché è stato un incontro tra una cariatide ormai come sono io, no? Con ancora i capelli bianchi, i capelli bianchi che sembrano, però mi sento ancora un bambino grazie al teatro, e tra me e Roberto è un autore, è un regista nuovo come Baracco, ed è stato un incontro bellissimo di idee diverse, che però abbiamo parlato, discusso, abbiamo trovato delle soluzioni bellissime, e quindi questa è stata anche un'occasione, perché io sono uno, per carità, io posso recitare a Biacco di sotto con tre persone, alla Prima di Milano è sempre uguale, però la vita inevitabilmente fa piovere sulla vita della polvere che ti adagia, ti ovatta un po', e allora è necessario intanto avere qualcuno accanto che sia di opinioni diverse dalle tue, che ti sproni, con cui discutere, con cui, certo, con cui elaborare cose nuove, ecco. Sì, sì, c'è, sì, stato un incontro bellissimo, e questa è la stata Becchetto, è stata una prova. Io ho apprezzato qualche tempo fa il tuo Finale di Partita al Teatro Eliseo, e ora c'è questo doppio appuntamento. Glauco, volevo chiederti qual è il tuo rapporto con Samuel Beckett e cosa ti apprezzi di più della sua opera. Sì, guarda, io ti dico, io ho conosciuto Beckett prima attraverso i romanzi, ho letto il primo Moro d'Amore, ho letto Sidney. E poi ho cominciato, io allora nel dopoguerra, io ragazzi sono nato nel 1930 e nel 1956-57 ho cominciato a leggere Beckett, perché la prima volta veniva pubblicato i suoi grandi romanzi, e avevo letto moltissimo nel dopoguerra perché ero affamato, e quindi avevo conosciuto i grandi autori, Shakespeare, mi ero innamorato di Sartre, mi ero innamorato di Dostoevsky. Ma ogni autore mi aveva lasciato un'impronta precisa, non so, la tavolozza di colori della vita, di tutti i colori della vita che è Shakespeare, oppure il grande dono che mi ha donato Dostoevsky, quello di dire che l'uomo ha la capacità e quindi il dovere di poter comprendere, mai giudicare, mai giustificare, ma comprendere sempre. E quando ho letto Beckett non capivo dove mirava questo Beckett. Una pagina mi inorridiva di cattiveria, un'altra pagina di tenerezza, un'altra pagina mi faceva ridere. E quello che mi ha colpito è la ricchezza, proprio la ricchezza. Parla della vita in tutti i suoi colori. E questo che mi affascina di Beckett. E ma la cosa che mi affascina di Beckett, scusa, ti avevo interrotto, mi stavi dicendo qualcosa? No, ti ascolto. La pagina che mi interessa di Beckett, e su cui non è che, non so, la prima volta che io a 61 anni ho fatto Beckett, no, ma che 61 anni? Nel 52, nel 51 ho fatto Beckett. No, 61 anni, ho portato per la prima volta nel suo palcoscenico, sì, Atto senza parole, che è l'ultimo nostro di Crepe, per la prima volta in Italia, mi hanno accusato gran parte dei critici di essere poco becchettiano. Allora Beckett era solo il teatro dell'assurdo, era la geometria del teatro, era l'aridità del teatro, e attraverso questa aridità si parlava dell'inconsistenza, dell'inconsapevolezza, della difficoltà del vivere. Io invece ci avevo dentro trovato una grande umanità, e questa è la cosa. Allora, ripetiamo l'appuntamento con Glauco Mauri e Roberto Sturno, che presentano An Attendant Beckett mercoledì 28 e giovedì 29 marzo alle ore 21 al Teatro Palladium a Roma. Glauco, io ti ringrazio, è stato un piacere, e ci vediamo a teatro. Grazie a te che ti interessa il teatro e cerchi di farlo capire anche agli altri. Grazie, ciao, arrivederci.

di ragionamenti tra gli spazi, se penso che appunto il Red Reading 10 l'abbiamo creato a Carrozzerie Nostre e che continua, no, tutto questo anche cucire in qualche modo gli spazi della città, oltre la città, attraverso i luoghi, le persone, le esperienze, no? I percorsi. Sì, sì, sì. Bene, Tamara, allora ricordiamo l'appuntamento con la terza stagione del Red Reading dal 30 marzo al 14 giugno, 4 incontri al Teatro di Villa Torlonia alle ore 20, i riferimenti ce li hai dati, un abbraccio e a risentirci presto. Grazie, grazie, a presto, vi aspettiamo. Ciao Tamara. Un abbraccio, ciao ciao. E ritroviamo il nostro Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ben ritrovato, caro. Eccoci, lunga vacanza. Lunga vacanza. Allora, come ben sai, non abbiamo mai interrotto, però è cambiato profondamente il momento del teatro su Radio Onda Rossa. E adesso la parola è agli artisti e alle artiste, per cui è una sorta di grossa agenda con le interviste che realizzo per il mio blog, che poi vanno in onda. Ti ho segnalato prima gli interventi che seguiranno la nostra conversazione in forma registrata, come anche questa sarà registrata, e per cui con te vediamo cosa offre chiaramente la settimana teatrale romana, e chiaramente segnalerai anche gli spettacoli che già ti ho detto, ma che comunque per l'approfondimento rimandiamo a quelle registrazioni. Benissimo, benissimo. Allora, è una settimana non particolarmente piena di appuntamenti, però direi che insomma qualcosa possiamo sicuramente segnalarci, qualcosa ci sono. Questa è una settimana in cui, perché chiaramente è una settimana che dà a Pasqua, quindi non sicuramente è corta rispetto ad alcune, rispetto alle altre, ed è anche meno facile che certi progetti insomma debuttino per restare, no? È più facile che restino quelli delle settimane precedenti. Come appunto restano al Teatro Eliseo, nelle due sale, alla Sala Grande e nel Teatro di Raffaele Viviani, con Mariano Vigilio e la regia di Alfredo Rias, un argentino-napoletano. Alfredo Rias, un personaggio piuttosto particolare, che porta la poesia di Viviani in scena, una sorta di music hall di Viviani, come la corda del funambolo su cui volteggia la fragilità dell'essere umano. Andremo a vederlo al Teatro Eliseo ancora fino al 29 marzo. E ti dico anche che fino al 29 marzo, nell'altra sala, nel piccolo Eliseo, resta Orphans di Dennis Kelly, che proviamo a vedere al volo, no? Orphans di Dennis Kelly con Della Mazzarelli, che portano in scena questo testo insieme a Monica Nappo. Non capisco per quale motivo sta accadendo tutto, sta scoppiando tutto quello che poteva scoppiare questo maledetto computer. Oh, ce l'abbiamo fatto, esattamente. È stato vincitore del premio Ligio nel 2017, e fino al 29 marzo questo grande noir, un testo di atmosfera cupa, molto sofisticato, accade qui, una serata tranquilla, Helen e suo marito Danny stanno per iniziare una cena a loro di candela. Irrompe in casa loro William, il fratello di Helen, coperto di sangue e in stato di shock. Afferma di aver trovato un crostato ragazzo ferito e di averlo soccorso. Ora, da qui chiaramente inizierà una vicenda di protezione, un noir che ci porterà a scoprire qualcosa in più rispetto a questa situazione. Me ne hanno parlato, io l'ho visto un po' in settimana, me ne hanno parlato come di un lavoro molto molto interessante, quindi lo segnalo con partecipazione. Fino al 20 marzo, Orphans, Dennis Kelly con Usella Mazzarelli e Monica Nappo al Teatro Piccolo Eliseo. Procedo ancora, Federico, per portarti al Teatro Argo, che questa settimana, diversamente dagli altri, con una sorta di novità rispetto al resto della programmazione, porta il progetto di Sinetwain sul focus di danza d'autore, una 3 giorni tutta dedicata alla danza contemporanea, che viene ospitata da un teatro come l'Arbore, invece a vocazione storicamente dedicato al teatro della danza. Si comincerà il 27 marzo con la serata Nuovi Autori, vado a segnalarvi che sarà un Nothing to Declare di Doris Petrillo, M, solo ritualistico in forma leggera di Nicola Simone Cisternino ed Isole Sensibili di Luca Zanni e Maria Vittoria Feltre. Il 28 di marzo invece seguirà Era mio padre, la coreografia è di Loredana Parrella, che porta questo lavoro prendendo spunto da una figura di donna contemporanea che è Benedetta Tobaggi, figlia di Walter Tobaggi, il giornalista del Corriere della Sera, assassinato sotto casa nel 1980. Questa è la partenza interessante, no? Questa storia che ci ricorda un pezzo di storia contemporanea, quindi ha a che vedere con una incursione nel teatro civile, ma attraversata dalla danza, quindi secondo me è piuttosto interessante per i nostri ascoltatori questo tipo di proposta. Il 29 marzo invece ancora una coreografia di Loredana Parrella, ma questa volta con delle incursioni drammaturgiche firmate da Roberta Nicolai, regista di Triangolo Scaleno, che conosciamo molto bene. Questo cigno è la ricerca di un'autorità, un necessario e volontario atto di ingenuità, costruzione di partiture corporee e ritmiche dentro le variazioni musicali di un assolo divenuto tanto famoso da entrare nell'immaginario collettivo. Ora, questo cigno chiuderà il focus del danza d'autore il 29 marzo al Teatro Arco Studio, ma non possiamo assolutamente perderlo. Ancora, dunque, dove li posso portare? Quindi vediamo un po', possiamo andare a vedere cosa succede all'Angelo Mai questa settimana, dove ancora ci sarà un po' di danza e l'arrivo all'Angelo Mai a Roma di balletto civile di Chiara Lucenti il 28 e 29 marzo sarà a Roma con Bad Lamps, prodotto da Oriente Occidente Festival, ed è un lavoro che viene appunto prodotto da questo produttore, ma è all'interno del festival Fuori Posto, che è un festival che viene realizzato dalla compagnia degli Incarti in quel due aspetti, e questa volta è un po' dislocato, ma ha a che vedere anche con Roma in questo modo. Contemporaneamente possiamo andare a vedere la prima esperienza di un lavoro nuovo firmato dalla compagnia dei Ragni, il lavoro che sarà in scena al 28 marzo presso la Sala Roma Teatri alle ore 19, si chiama Macbeth Out Idola Teatri, studio per un nuovo spettacolo di Davide Pozzolino, che abbiamo già visto in tanti casi, credo abbiamo avuto anche nella nostra programmazione. Sì, sì. La famosa opera shakespeariana, appunto Macbeth, è ripresa con un'attenzione particolare alla superstizione, la fascinazione della principale razionalità e la tendenza alla ritualità che essa comporta. C'è una sola attrice, Isfera, e tutto il resto, ci dice la Sfera, può apparire. Noi aspetteremo di scoprire queste apparizioni e per ultima cosa, secondo ricordo qualcosa di cui già tu mi hai parlato, cioè forse uno degli spettacoli che nella settimana meritano più attenzione, cioè l'arrivo del nuovo monologo di Claudio Morici, il nuovo reading, il 46 tentativi di lettera a mio figlio, al Teatro Mascello, nell'ambito di Sgombro, di Filetti di Sgombro, 30 e 31 marzo alle ore 21, sono le avventure di uno scrittore ultra quarantenne piegato dal peso del marsupio, questo ci dice Claudio Morici di sotto, ed è appunto, come dice il titolo, un tentativo, anche tanti tentativi, di lettera proprio di spiegare il tempo contemporaneo, un po' la vita che l'unica parte è costretto a vivere e quella che lascerà al proprio lavoro. E questo è quanto vi dico per questa settimana e buon teatro a tutti. Benissimo. Allora Simone, un abbraccio e a sentirci presto. A prestissimo. Ciao.